4, 3, 2, 1, let's go! Un'altra radio Roma. Si è svegliato! Buongiorno, signor Marchese. Buona giornata, eccellenza. Dormito bene, signor Marchese? Oh! Ma che è qui? Stavo su un'altra radio Roma e mi sono addormito. Ando sto? Signor Marchese, nel suo palazzo. Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta di? È il palazzo, signor Marchese. Io so Gasperino il Carbonaro. Ma che mi volete far passare per matto? Questa è radio pazza. Ma signor Marchese... Ah, ma basta con sto Marchese. Mamma mia, ne ho rotto i coglioni. Io so Gasperino il Carbonaro. Radio pazza. Io so Gasperino il Carbonaro. Represent the hip hop. Represent, yeah. Represent the hip hop. Un'altra radio Roma. Pazza. Eccezionalmente per questa volta. Il lato B della musica secca. Del selezionatore. Su radio pazza. Oh. Radio. Pazza. Io so Gasperino il Carbonaro. Salve amiche e amici. Sono il selezionatore Gasperino. Tranquilli, non avete sbagliato blog. Questa è Radio Pazza. Radio. Pazza. Sono qui oggi per proporvi un lato, quello B, delle due musicassette de Nartra Radio Roma. Ma prima di entrare nel vivo di questa raccolta musicale, lasciatemi spendere due parole per DJ Buck e DJ Prisma di Radio Pazza. Li ringrazio per averci offerto uno spazio all'interno della loro radio. Posso garantirvi che la loro scelta è stata veramente coraggiosa, perché io conosco chi sono i quattro DJ dell'altra Radio Roma. Shhh, pericolosi. Lo scopo delle due radio in questione è quella di diffondere musica, ma non musica qualsiasi, ma di qualità e soprattutto libera. Perché? The music is free! Ringrazio a te che mi stai ascoltando e ringrazio il pubblico di Radio Pazza, compresi i miei fans. Il lato B di questa musica stessa sarà composta da aforismi, poesie e soprattutto musica. Quindi, amici e amiche, visto che il tempo che abbiamo a disposizione non è molto, considerato che gli artisti che vi vado per passare scalpitano, direi di cominciare velocemente. Corriamo, senza indurre alcun ritardo, i primi due gruppi che vi vado a proporre sono italiani. Il primo è una formazione lucana ed è composto da quattro elementi. Giovanni Suma al basso, Enzo Bricesa alla voce e chitarra, Davide Signori alla batteria, Giovanni Lentini alla chitarra solista. Il loro nome è Locomotiva Brigante e ci presenta un pop critico. Il secondo gruppo sono i Maniscalco Maldestro. Tonio voce e chitarra, Frank chitarra e cori, Borchia batteria e cori e Robot basso. Suonano dal 2000 insieme, gustateveli con Mi scuote, mi incanta. Ma prima il pop critico della Locomotiva Brigante con una canzone. Con che? Con una canzone. Con che? Con una canzone. Ossia, ascoltiamo la Locomotiva Brigante con una canzone. Con che? Ma va. La Locomotiva Brigante. Brigante. In un posto all'aperto ho guardato il sole, c'era un vento con un sibilo scuro. fabbriche dismesse giacevano a pezzi nella piana abitata da neri. Ma la vita, la vita, la vita cos'è se l'amianto fa d'arredo un giardino e di metri dal mondo civile e crudele non gli accorci con una canzone. La la la la la la, con una canzone. La la la la la, da una crisi di mercato ad un barcone sprofondato in mare, nel silenzio del cuore, in cui ci piace sprofondare. anestesia a curare il male che ho di te. Ma il cuore è languido e il corpo livido, che mi scuote e che mi incanta, che mi scuote e che mi incanta, che mi scuote e che mi incanta, che mi scuote e che mi incanta. La tua mano su di me lentamente scivola. Sono dei ragazzi spagnoli e si chiamano Mala Idea. Dal loro primo disco, Cultura de Bar, ho estratto Balla Perdida. È sporco il sesso? Solo se fatto bene. Woody Allen. Flaiano. In amore bisogna essere senza scrupoli, non rispettare nessuno e all'occorrenza essere capaci di andare a letto con la propria moglie. Il progetto musicale che sto per passare nasce a Bari e risponde al nome di Eva, Il brano si intitola Crisis. A seguire, immediatamente dopo, i Pornophonic. Sono due ragazzi tedeschi con una chitarra e un Game Boy, un C64, campioni di Space Invaders e altri giochi, che utilizzano trasformandoli in musica con una ritmica ben impostata, l'elettronica che si alterna alla chitarra, il tutto confezionato con la voce che si integra perfettamente in un esperimento, a mio modo di vedere, ben riuscito. I Pornophonic con Rock and Roll Hall of Fame. Il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma fra le esperienze vuote è una delle migliori. Woody Allen. Hall of Fame. So I want mirrors on the ceiling and pink champagne on ice. Another fucking day for you and me in paradise. Give me an old school guitar, an 8-bit lo-fi porn star. I promise that I'll take you to the paradise in hell. And so again and again, we're playing this game. We wanna see our name in the Rock and Roll Hall of Fame. The Rock and Roll Hall of Fame. I'm playing guitar, I'm playing a game, but for the Rock and Roll Hall of Fame. I'm playing guitar, I'm playing a game, but for the Rock and Roll Hall of Fame. I'm playing guitar, I'm playing a game, but for the Rock and Roll Hall of Fame. Trilussa. Buon senso pratico. Quando de notte sparsero la voce che un fantasma girava sul castello, tutta la folle corse e nel vederlo cascò in ginocchio con le braccia in croce. Ma un vecchio restò in piedi e francamente voleva dire che non c'era niente. Poi ripensò: sarebbe una pazzia. Io, senza dubbio, vede che è un lenzuolo. Ma più che di la verità da solo, preferisco sbagliarmi in compagnia. Dunque è un fantasma, senza discussione. Eppure lui si mise a pecorone. ed eccomi di nuovo qui da voi. Quello che abbiamo appena ascoltato era un rock popolare bolognese. Nascono e suonano insieme dal 1999 e sono gli Harem. La traccia che abbiamo appena ascoltato risponde al nome di Al Buio, Pesto il Potente. E quello che vi propongo adesso è un rock folk celtico tedesco. Marianne con I'd Like Dance With You. Sognatore un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole. Ennio Flaiano. Up in the morning light and look above to the sunny sky. I see the bird, they flying high. It's singing our song full of joy. I hear old children's laughing, telling it delights my soul and my heart is laughing. Our people should be siblings of love, in each other trust if things get tough. I'd like to dance with you today. Come on, my heart. I'd like to dance with you today. I'm so happy, I want you to stay. I see the flowers in the color sea. It delights my heart, so shall it be. I see my dearest with bright eyes, with her love my mind is in a haze. I hear old children with laughing, telling it delights my soul and my heart is laughing. Our people should be siblings of love, in each other trust if things get tough. I'd like to dance with you today. Come on, my heart, don't go away. I'd like to dance with you today. So maybe I want you to stay. In the shadow of the moonlight, we dream our sweetest dreams. Down by the willows brown, we sing our sweetest songs. In the flavor of the twilight, waiting for the longing, we enjoy our love and looking forward to the light, forward to the light. Degli altri mi affascina, ma preferisco la mia. Ennio Flaiano. Ho citato più volte Ennio Flaiano in quanto in quest'anno ricorre il centenario della nascita. e ne siamo tutti molto grati a quest'artista. E così siamo giunti a grandi passi, quasi al termine del lato B di questa musicassetta. Ma prima di passare ai saluti, resta il tempo di ascoltare ancora due realtà artistiche che si cimentano con un genere musicale a me veramente caro, il jazz. Il primo è un artista romano di nome Paolo Pavan. Noi ne siamo grandi sostenitori, suona il pianoforte e si fa accompagnare in una commistura di suoni che ci emoziona, da Davide Marinacci al sax, da Marco Roccuzzo al contrabbasso, da Fabrizio Boccardelli alla batteria e Angelo Olivieri alla tromba. Il brano che ci presentano è What's Up. Successivamente ci sentiremo dei Boom Boom Beckett, formazione jazzistica torinese, Onda su Ombra. Noi ci risentiremo per i saluti, ma prima Paolo Pavan con What's Up, What's Up, What's Up, What's Up, What's Up. We'll be right back. visto un bouquet, non bastano le parole. Ho fatto buono il viso ad un cattivo gioco ed ho trovato fatto quel mio solo fuoco e... arrivati a lei che tutto quanto muove, sciogliersi come neve, bianca il primo sole. Grazie a Radio Pazza. Ehi. E sono Gasperino e sono giunto al termine di questo esperimento musicale. Il lato B della musicassetta che hai appena ascoltato potresti anche riascoltarlo. Premendo il tasto Rewind riavvolgerai il nastro e tutto ricomincerà da capo, come ai vecchi tempi. Schiaccia Rewind. Sì. Salve amiche e amici, sono il selezionatore Gasperino. Tranquilli, non avete sbagliato blog. Questa è Radio Pazza. Schiaccia Rewind. Salve amiche e amici, sono il selezionatore Gasperino. Tranquilli, non avete sbagliato blog. Questa è Radio Pazza. Schiaccia Rewind. Stick, stick, stick.